poi vedo una valvola di sfogo fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e Razzi e Sgarbi cazzo tutta la vita, vi prego. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Ma ti piccio in testa! No, non ho detto gioia. Tazza di merda! Il mio treno va e va. Dentro il mio vagone pieno di sogni, il mio treno va e va, con le paure, le incertezze, gli inganni. Cominciamo subito col dire una cosa, caro Parenzo, te la dico tutta, te la dico tutta. Potrà avere anche commesso oggi l'ingegnere Moretti, il grande capo dei treni italiani, almeno quelli che appartengono alle Ferrovie dello Stato, perché poi c'è anche il dottore Montezemolo che ha gli altri treni, no? Potrà avere fatto anche degli errori di comunicazione, forse c'è un piccolo balletto, perché prima dice me ne vado se mi tagliano lo stipendio, poi dice mi fido di Renzi, vabbè, insomma, potrà avere fatto degli errori di comunicazione, perché l'uomo è irruento, è fatto così, insomma, è uno che viene dal basso, ha fatto tutta la carriera, ha fatto tutta la carriera nelle ferrovie, ma viene dal basso. Però di fondo ha ragione al 100%. So che adesso mi lapidate, mi direte questo guadagno 850.000 euro, come fai a difenderlo? Non si vuole abbassare lo stipendio, ma tutto va rapportato all'azienda in cui sei. Il suo omologo in Germania guadagna tre volte tanto, diciamola tutta. Comunque, partiamo dalle frasi di Moretti che io appoggio al 100%. Gli ho detto che il mio collega tedesco piglia tre volte e mezzo quello che piglio io, quindi piglia oltre 3 milioni, andate a vedere quanto piglia la Merkel. Immagino pigli non 3 milioni, era 200.000 euro, non di più. Lui dice non è giusto stare sotto a Napolitano come compensi. Ci sono forse dei casi da dover rivedere, ma la logica secondo cui uno che gestisce un'impresa che fattura quello che vi ho detto deve stare al di sotto del Presidente della Repubblica è una cosa sbagliata. Sia negli Stati Uniti che in Germania, che in Francia, che in Italia, il Presidente della Repubblica piglia molto molto meno di quello che pigliano manager delle imprese. È il bello che ovviamente su Twitter, sui social network, ovunque, anche per strada, risulterà scandaloso difendere qualcuno che guadagna 850.000 euro e che dice no, dice me ne vado se mi tagliano lo stipendio. Ma io non sono pauperista, eh. E poi quelli che attaccano Moretti sono gli stessi che se poi gli tocchi 100 euro nello stipendio si mettono a bloccare giornali, città intere, i trasporti, eccetera. Per cui io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone. Poi Renzi a un certo punto dice Moretti capirà. Confermo l'intervento sugli stipendi dei dirigenti pubblici e sono convinto che quando Mauro Moretti vedrà la ratio dell'intervento sarà d'accordo con me. Sarà d'accordo con me. Mo. Dopo il ma di Parenzo passiamo a un'altra roba. Allora, vi pare normale? No, aspetta, c'è tempo, dai. C'è tempo, non si sente una mazza e c'è tempo. O stai fermo con il telefono ben collegato alla bocca, oppure non si sente una mazza. Ma chiaro, qua, tra pochi minuti il Veneto sarà indipendente. Capisco che a te non te ne freghi nulla. No, però a me me ne frega molto e sono anche favorevolissimo all'indipendenza del Veneto in via teorica. Solo che questo referendum, solo che questo referendum per adesso non porta a nulla. Vaglielo a dire a questi qui, adesso te li passo. No, no, non mi passerà nessuno per adesso. Non mi passerà nessuno. Perché? Scrivo una canzone per te. Allora, vogliono mettere in croce Farinetti, Oscar Farinetti, il padrone di Italy, perché apre ristoranti e catene alimentari. dà lavoro, crea lavoro, gli dicono che paga pochi i suoi dipendenti, in realtà li paga quanto li vuole pagare senza violare alcuna legge, senza violare alcuna legge, magari al minimo, ma li paga, dà lavoro, dunque non rompetegli i coglioni. E c'è un signore, Adriano Celentano, che fa il cantante, l'artista, il quello che fa, insomma, l'artista, no? Che ha guadagnato un sacco di quattrini nella sua vita, cioè ha fatto i soldi, che contesta sostanzialmente a Farinetti di guadagnare dei soldi. Ti giuro, gli contesta di guadagnare dei soldi a scapito della cultura. Cioè, dice, stai zitto, dice di aver aperto. Dice di aver aperto, che lui ha aperto a Milano Italy al posto del Teatro Smeraldo, che rappresenta secondo lui la cultura, mentre secondo me Italy è molto più cultura dello Smeraldo che c'era prima. Vabbè. Ma chi se ne fotte dello Smeraldo? Di cosa c'era prima là? Quello da posti di lavoro. C'è gente che va dalla mattina alla sera lì dentro. Ma che dice Celentano? È pazzo, è impazzito. Semplicemente perché ha iniziato la carriera allo Smeraldo, ma chi se ne frega? Si apre il dibattito sullo Smeraldo a Milano. Farinetti, questa mattina. Io sono profondamente in disaccordo con le cose dette da Adriano Celentano, ma voglio dirgli che la poesia delle mie salsicce non è inferiore a quella della sua Via Glu. Che dietro le mie salsicce ci sono gli allevatori della Granda che hanno fatto un presidio slow food. Volevo dirgli che qua dentro abbiamo creato 352 posti di lavoro e che ogni sera c'è dei giovani che suonano e si fanno ascoltare, c'è bella gente e che questo è rock. Poi litiga con la Carfagna, sentiamo, dicendo che Forza Italia è un'azienda. Stamattina aria che tira. Mi fa veramente ridere pensare a questa cosa della successione dinastica, che dimostra ancora una volta che Forza Italia non è un partito, ma è un'azienda, ma va bene così, però basta dirlo. E mi fa specie che una persona che si sta dimostrando così. Sì, no, ma io sorrido, come perché io sorrido di tutti, perché io non ce l'ho con nessuno, anche, non me l'abbio mai con nessuno. Sia rispettoso. Voglio, certo. No, no, ma allora chiedo scusa e ripeto con tutto bene, rispetto. Bene, meglio. La vita come il treno va, e un'altra estate ormai già qua. Saluta tutti. Saluto tutti e manda a fanculo Berlusconi. Il treno spunterà. Annarella. Io sulla spiaggia. Allora c'è uno del PD che vuole mettere il simbolo, anzi il nome di Renzi nel simbolo del PD, subito bocciato. Ricci, credo che sia presidente della provincia di Pesaro, una cosa del genere. Ricci, Partito Democratico. Io non capisco perché noi alla fine della giostra dovremmo essere l'unico partito che non gioca la carta della leadership che ha in questo momento fortissima dopo l'investimento politico che è stato fatto. Mi sembra politicamente una cosa che non ha un grande senso. Quindi io non capisco perché oggi che abbiamo una carta di questo tipo non dobbiamo giocare. No, io voglio però la notizia. Questa è la notizia. Il Movimento 5 Stelle, per essere chiari, senza il nome di Grillo dentro. Lei propone ufficialmente, Ricci, mi guardi, lei propone ufficialmente qui ad Agorà che il nome Renzi sia nella lista del PD. Questa è la mia proposta, la discuteremo nei prossimi giorni. Subito bocciato da Renzi. Allora, caro Parenzo questa sera è in collegamento da Treviso. Collegamento da Treviso. Esatto. È con noi uno dei più grandi nemici, anzi il maggior nemico di Renzi in questo momento, quello che gli procura un sacco di guai, un sacco di pensieri, compresa la questione della casa, Alessandro Maiorano. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, dipendente del Comune di Firenze. Che fa lei al Comune di Firenze? L'usciere si legge da qualche parte, Maiorano? Dicono che sono un usciere, io invece credo di fare l'impiegato, ma usciere non è un dispregiativo, naturalmente. No, per cui, però non è usciere lei? No, non sono usciere, sono impiegato al Comune di Firenze, è diverso. Impiegato al Comune di Firenze. Allora, bisogna... Ma non ha chiesto un aumento magari a Renzi, al Comune? Aveva chiesto un aumento e non gliel'hanno dato? Dice Parenzo che forse le hanno chiesto un aumento, non le hanno date, lei si è scatenato contro Renzi. No, non mi sono scatenato contro Renzi perché ho chiesto un aumento. Mi sono scatenato contro Renzi perché secondo me ci sono delle cose che non vanno bene dal momento in cui lui ha preso possesso. possesso di Firenze, anche prima forse. Ma senta, ma secondo lei Renzi ha portato Firenze al disastro? Ma Renzi ha portato Firenze, non dico al disastro, ma avere molte persone erano totalmente scontente dell'operato di Renzi. Renzi ha usato Firenze per sue situazioni personali, ha usato la città, ha usato i fiorentini per poter arrivare a Roma come trampolino di lancio. Non ha certo fatto il sindaco Renzi a Firenze. Allora, bisogna dire che Maiorano, che fa il dipendente del comune di Firenze, è quello che ha portato alla luce non solo le vicende della Corte dei Conti, se non sbaglio, no Maiorano? Quelle che... Ma sì. Quelle... Devo dire una cosa. Sì, aspetti un attimo. La vicenda della Corte dei Conti, su cui c'è una condanna in primo grado, Renzi ha fatto appello, non è stato condannato da solo per alcune spese che sono state fatte quando era presidente della provincia. Ha portato alla luce la vicenda del comune di Firenze, cioè della famosa casa affittata da Carrai a Renzi, dove Renzi ha preso la residenza, e tante altre cose. Mi dica una cosa, Maiorano, ma ci sono altre vicende che, su cui lei ha dei dossier segreti, i famosi dossier? Sono assolutamente dei dossier. Ma no, ma io dico così, Maiorano, per scherzare. Ci sono adesso delle indagini, spero ci saranno delle indagini in corso in relazione alle fondazioni di Renzi, in relazione a tutto quello che è successo con la vicenda dell'attico. Spero che i magistrati vadano a fondo in tutta questa storia. Io non ho... Ma secondo lei quali sono le ipotesi di reato che ci possono essere su questa vicenda della casa, sulla vicenda degli affidamenti a Carrai, degli incarichi a Carrai, eccetera? Io mi sono fatto un'idea, certamente non sono un magistrato, sono un semplice cittadino, non sono importante come Matteo Renzi, ma alquanto strano vedere che un imprenditore amico di Renzi per 35 mesi ha pagato l'affitto di Renzi. E perché secondo lei? Per interessi che lui ha adesso e che ha ottenuto nel comune di Firenze? Beh, proprio per questo io sono andato in procura. La prima volta il 27 di gennaio, la seconda volta il 13 di marzo, e semplicemente ho fatto degli esposti dove i magistrati... ma secondo lei quali reati ci potrebbero essere? Al di là degli esposti che lei ha fatto, sono cose già abbastanza note, ma secondo lei ci possono essere dei reati in questi esposti che ha fatto? Quali sono i possibili reati? Ma non lo so se ci possono essere dei reati, sta di fatto che questa vicenda è molto simile a un'altra situazione, un'altra vicenda che è sotto gli occhi di tutti. Poi magari, cioè, quale? Ci sono un imprenditore che paga l'affitto a un sindaco di Firenze e lo fa per amicizia. Ora, a parte l'amicizia, andare un avere, per cui lo potrebbe fare anche chiunque, va bene, ma è molto strano, è molto ambiguo, che ripeto, un imprenditore poi ha avuto un sacco di situazioni favorevoli con Renzi, abbia pagato la casa a Renzi, dove Renzi tra l'altro non è che veniva qualche volta, ma aveva la residenza. Ha preso la residenza, sì. Sento una cosa, Maiorano, voglio chiedere una cosa. Lei è un semplice impiegato del comune di Firenze, ha fatto queste denunce, è venuto fuori un pandemonio, Renzi ha dovuto spiegare, spiegazioni per me piuttosto deboli, quelle che ha dato nel comunicato uscito dalla presidenza del Consiglio. Però le voglio dire, ha paura del suo posto, ha paura di qualcosa in queste battaglie che lei fa o no? Perché dovrei avere paura? E che ne so? Ho fatto questo perché... Un attimo solo, traffico, torniamo subito. Sei ancora a casa, Simo? Le zanzare di casa. Allora, l'amico Gianluigi Nuzzi, Parenzo, mi dice: è uno scandalo il fatto che un dipendente pubblico come Moretti, il grande capo delle Ferrovie dello Stato, possa guadagnare 70.000 euro al mese, perché più o meno questo sarebbe il suo stipendio, cioè 850.000 euro l'anno. Ma non è un dipendente pubblico. Che vuol dire un dipendente pubblico? È normale se fosse... Non è come i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è una società diversa dalle Ferrovie dello Stato. Diversa! No, dai, su! Vabbè. È chiaro però che in un momento come questo, siccome si chiedono sacrifici a tutti gli italiani... Vuol dire? No, ma è una cosa demagogica! No, non è demagogica! Ma quello ha responsabilità, che nemmeno... Dai, su! Ma vuol dire semplicemente che siccome quelle nomine sono comunque nomine di controllo politico, è chiaro che la politica che chiede sforzi agli italiani... Ma questa è la... Tu sei il pappagallo di Renzi, di Renzi, sei diventato il pappagallo di Renzi. Ma non ti permettere perché ti querello, non sono il pappagallo di incasso di nessuno. nessuno, primo, di nessuno. Dico quel che penso e siccome ho sempre sostenuto che comunque un tetto agli stipendi dei ma quale tetto? Ma dipende, deve essere. Poi lasciamo perdere, ha ragione Moretti quando dice che in Germania il suo omologo prende tre volte tanto. Quello prima di Moretti. Ma la Germania, salame, non ha il debito pubblico italiano, per esempio. E quindi... Siccome la nomina è politica, è giusto che siccome il controllo di questi è politico, la politica decide diversamente, sai com'è? Ha deciso diversamente, non gli va bene? Ciao, troveremo un altro, metteremo Cruciani alle ferrovie. No, per carità, i treni andrebbero a sbattere continuamente. Ma dico una cosa, che quello prima di Moretti guadagnava circa due volte quello che ha portato lo sfascio alle ferrovie dello Stato, guadagnava due volte Moretti. Comunque lasciamo perdere, ne parleremo più avanti. Abbiamo con noi Alessandro Maiorano, dipendente del Comune di Firenze, che combatte in solitaria, adesso non più in solitaria devo dire, contro alcune cose che ha combinato Renzi al Comune di Firenze. Mi hanno riferito una cosa, caro Maiorano, che in realtà tutto nasce dal fatto che la volevano spostare di ufficio. Cioè, la volevano spostare di ufficio. Lei si trova in un ufficio vicino all'autostrada dove poteva andare a trovare sua madre che non sta molto bene, che è ferma a casa. L'hanno spostata di ufficio al centro. Lei si è incazzata e ha cominciato a fare degli sposti contro Renzi. Allora, innanzitutto mia madre vive con me, io la sto accudendo. Sì, questo. La cosa di mia madre è vera, ma questa situazione con Renzi l'avrei fatta anche con un altro politico, perché io alle spalle ho un passato in relazione ad altre vicende. Sta di fatto che la cosa vergognosa è stata fatta nei confronti di mia madre e ha portato il sottoscritto ad avere un astio appunto, nei confronti di questa persona, ma l'avrei fatto anche con un altro soggetto. Insomma, certo, qui c'è più motivazione, più importante. Cioè, perché l'avevano spostata di ufficio e lei si è arrabbiato con Renzi e ha cominciato a spulciare Non solo con Renzi mi sono arrabbiato anche con tante altre persone. Perché, ripeto, quando una persona è come mia madre gravemente malata, bisognerebbe avere un occhio di riguardo, soprattutto essendo io in possesso della legge 104. Vabbè, adesso lasciamo perdere i dettagli. Maiorano, ma lei ha anche altre cose? Ci sono anche altri settori dove sta preparando degli esposti? Sì, per esempio? Ho altre due frecce da scagliare. Per esempio? No, questo non lo posso assolutamente dire. Beh, una, me ne dica una. No, questo lo dirò ai magistrati a tempo debito. Ma su altre vicende? Su altre vicende fiorentine, naturalmente. Altre adesso due voglio, frecce voglio... da scagliare, capito Parenzo? Voglio capire, lui ha già depositato queste denunce o lo farà? Quali denunce? Queste due? Queste due sono in fase di conclusione da parte del sottoscritto di accertamenti. Dopodiché io attendo l'esito di questa storia della casa, sperando che questa storia della casa prenda il binario giusto. Le vuole portare in tribunale Renzi su questa storia della casa? Come? Su questa storia della casa pensa che Renzi debba andare in tribunale? Ma io non lo so se deve, ripeto, la situazione è alquanto strana. Io ho fatto 6 domande, se vuole gliele dico ai giudici. Ci sono 3 domande che io chiedo e abbiano risposta, perché una è molto particolare: da dove sono arrivati questi soldi? Dati Carrai, benissimo, tutti zitti, nessuno deve dire niente perché dei soldi suoi fa quello che vuole, anche se pagare l'affitto al sindaco di Firenze è alquanto strano. Ma c'è un altro particolare molto strano. Qual è? Ed è quello: Matteo Renzi, allora il 22 di gennaio esce una mia intervista su un giornale. Sposta che la residenza di nuovo, dai. Sì, cambia residenza di nuovo e questa residenza avviene in poche ore, nel senso che in poche ore Renzi passa da residente a Firenze e ripassa. Va bene, che cosa c'è dietro secondo lei? Ma non lo so che cosa c'è dietro, ma lei provi a chiedere un cambio di residenza e vediamo se gliel'accettano in poche ore oppure se ci mettono 15-20 giorni, un mese. Ma ora, secondo lei in città c'è un vero e proprio sistema Renzi, un sistema familistico di amici che ha favorito gli amici o no? Ma senta, le posso soltanto dire che Renzi parla tanto di trasparenza, parla tanto di trasparenza, ma poi in realtà io questa trasparenza non l'ho mai vista, non l'ho mai riscontrata. È sempre molto trasparente con i suoi amici. Molto. Come giudica la storia della futura moglie di Carrai, che è un grande consulente? Questa è una storia tirata fuori da Tommaso Grassi, che è un consigliere di SEL con il quale io sto lavorando in batteria su altre vicende. In batteria, che siete? In batteria, sì, in batteria, perché io non sono nessuno, naturalmente. C'è anche questa vicenda della futura, cioè questa la futura compagna di Carrai, che è stata nominata coordinatrice di una mostra molto importante a 375 mila euro è l'appalto complessivo a 26 anni, a 26 anni adesso dice che di essere stata nominata per merito, facce ride, si potrebbe dire. Mi sembra un po' strano che questo Carrai improvvisamente abbia tutti questi vantaggi rispetto ad altri imprenditori, cioè mi faccio presente che a Firenze di imprenditori ce ne sono a migliaia, guarda caso questo piglia sempre i posti migliori, allora ci spieghi come fa. Perfetto, Parenzo, chiudi, Parenzo. No, voglio solo capire se teme ritorsioni da parte di qualcuno, del comune, di Renzi. Come? Teme ritorsioni? Ma io non temo niente, non temo assolutamente niente. Le ritorsioni non mi interessano, non me ne frega niente. Se temevo le ritorsioni non avrei neanche cominciato questa cosa. Va bene, Maiorano, grazie, a presto. Caro Giuseppe, caro Parenzo, buonasera. In questo caso nel mio spazio sotto salice non stare lì così, metti comodo. Voi sentirete sempre per un po' di giorni la voce del Papa che pronuncia quella parola lì, che per sbaglio dice cazzo, perché in regia c'è un anticlericale, un antipapista coi fiocchi. In questo cazzo. Ecco. In questo cazzo. Non è colpa mia, è dall'altra parte. Allora, questo ha detto David Parenzo ieri sera alla Zanzara. Caro Parenzo, mi dispiace, ma sei già presente sul blog di Grillo per questa cosa che hai detto, eh? Vergogna, vergogna. Mi senti o no? Sì che ti sento. Ecco. Grazie a te, perché in verità ho spiegato cosa stavo dicendo. Sì, hai spiegato, ma adesso bisogna spiegare. La frase è molto chiara, chiarissima. Risentiamola. Uno che parla di rivoluzione antropologica, di un personaggio che sa solo dire parolacce, ma andare a fare in culo e candidare della gentaglia in Parlamento. Sentiamo. Dico culturalmente, molti di questi sono gentaglia, culturalmente. Ma quale culturalmente? Quello che hai detto è molto chiaro. Grillo ha portato in Parlamento della gentaglia. Ma stai a fare la zanzara con me, è evidente quello che ho detto. Che Grillo ha portato in Parlamento della gentaglia. Sono persone che ovviamente hanno la fedina penale pulita, che sono delle. No, hai parlato di gentaglia. E non è che, ma che culturalmente? Me l'hai spiegato dopo, quando hai capito di aver detto una stronzata. Dai, su. Intanto quel che dico, e puoi farlo risentire 50 milioni di volte. Il messaggio è molto, molto chiaro. Ho detto che culturalmente, tra l'altro stavo anche completando, ma tu hai tagliato ovviamente perché stava chiudendo, che chi pensa che ci sono dei microchip nel sottopelle messi dagli americani, chi propone come qualcun altro di questi addirittura il, cos'era lì, la vacchetta? No. La frase iniziale è molto chiara. Portato in Parlamento della gentaglia. David Parenzo, due punti. Grillo ha portato in Parlamento della gentaglia. Punto e basta, dai. Sì, culturalmente. Poi ha detto culturalmente. Comunque, gentaglia, non è che quando uno si riferisce alla cultura parla di gentaglia, dai. Vai avanti, fallo sentire ancora, vai avanti. No, l'ho fatto sentire. Avanti ancora, dai. Allora, la vicenda Carrai-Renzi, che non è finita qui, viene riassunta da Travaglio in questo modo. C'è un conflitto di interessi per Renzi. Sentiamo il conflitto di interessi. A me non me ne frega niente delle inchieste della magistratura, sugli appalti, sui lavori ricevuti dalle aziende vicine a Carrai, dove Carrai è socio, eccetera. Non me ne fotte nulla della magistratura. Male. Che terzietà può avere un sindaco se un soggetto importante dell'economia fiorentina gli paga l'affitto a casa e poi ottiene incarichi dalla giunta del sindaco? Questo è il problema, si chiama almeno conflitto di interessi. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Moretti, la frase contestata del grande capo delle Ferrovie dello Stato, la facciamo risentire, è questa: buona parte dei manager andrà via se verranno ridotti gli stipendi, perché non ci saranno più i migliori, compreso il sottoscritto. Che desidera? Sconterà che una buona parte di manager vada via, lo deve mettere in conto. Lei nel caso pensa che se dovessero essere ridotti, magari nel suo caso sarebbe pronto comunque a trovare un altro... Ma non c'è dubbio. ...occupazione. Sono pronto a trovare un'altra occupazione. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi nega qualsiasi conflitto con i vertici delle istituzioni europee. Semestre italiano, grande occasione, l'Italia può arrivarci solo con riforme imponenti. Il lavoro di Cottarelli, commissario per la Spending Review, è per il Presidente del Consiglio un buon punto di partenza, ma su alcune cose, dice, non sono d'accordo. Boletti, la disoccupazione è alta anche quest'anno, tempi lunghi per vedere gli effetti delle riforme sul lavoro, via al decreto sui contratti a termine. Forza Italia al lavoro sulla lista per le europee, il nome di Berlusconi resta nel simbolo, i figli frenano sulla loro candidatura. L'Europa firma l'accordo di associazione con l'Ucraina, Putin ironizza sulle sanzioni ma offre una tregua per evitare peggiori conseguenze economiche. Twitter proibito in Turchia ufficialmente per violazione della privacy, una mossa boomerang per il premier Erdogan coinvolto nello scandalo corruzione. E l'inchiesta su infrastrutture lombarde, consulenze affidate ad amici, appalti truccati per 224 milioni. Per il GIP i vertici della regione sapevano. Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni. Io non mi capacito ancora come uno... come si possa dare retta ad Adriano Celentano, che critica uno, un imprenditore che può fare bene o male il suo mestiere a seconda, insomma, di come va la sua azienda, per il fatto che abbia rilevato un teatro. Ma rilevalo tu il teatro se hai i soldi, no? Se tenevi così tanto allo Smeraldo, perché Celentano non ha tirato fuori i quattrini? Tira fuori il danè, tira fuori i quattrini, comprati lo Smeraldo e non ci rompere i coglioni. È una polemica sciocca. Ma non solo una polemica sciocca, ma cos'è la cultura? La cultura che cos'è? Solo lui? Che cos'è la cultura? Dai, su. Ma è una cosa patetica, ridicola, patetica e ridicola. A rimproverare a Farinetti che cosa? Ma io non lo dico, io posso criticare Farinetti tante volte per le cose che dice, non è questo il punto. Rimproverare che cosa? Che ha rilevato un teatro per fare dei ristoranti, per fare dei supermercati di un certo tipo? Questo è rimprovero? Ma chi se ne fotte poi del teatro Smeraldo? Ma chi se ne frega? La gente se l'ha già dimenticato, su. La Pascale dice a Repubblica che senza Silvio il partito vacilla e dunque Marina Berlusconi deve fare il gran sacrificio, poi attacca anche Alfano parlando di tradimento, ma questa non è una novità, e un po' anche la Santanchè. Stefania da Roma. Stefania? Pronto? Sì, ci sono, pronto. Dica. Io volevo dire velocemente tre cose. Allora, la prima è che comunque un teatro che ha circa 70 anni sarà sicuramente sotto vincolo e quindi sicuramente quando sono stati fatti i lavori questi vincoli saranno stati rispettati, come è stato fatto anche per la Rinascente a Roma, che oggi è, insomma, un grosso marchio d'abbigliamento, ci ha messo il negozio, eccetera, eccetera. Seconda cosa, chi è Celentano per pontificare su una cosa del genere? Io devo ancora capire, perché questo c'ha tutto questo spazio, non è legittimato da nessun titolo se non quello di fare il cantante, tra l'altro di musiche leggere. Poi, terza cosa, sono completamente d'accordo con lei quando dice se ci tiene tanto al Teatro Smeraldo che se lo compri, tanto i soldi sicuramente ce li avrà. E beh, poi magari per comprarsi lo Smeraldo no, però comunque insomma, cacci i quattrini, si faccia aiutare, rilevi lo Smeraldo, ci sono tanti teatri in Italia, dai, su. Posso aggiungere un'altra cosa, con tante cose da salvare in Italia, importanti, Pompei, eccetera, lo Smeraldo è l'ultima cosa, in più... Io credo che tutto quello che non riesce a sfruttare, a dare dei soldi, vedi lo Smeraldo, perché comunque c'era una programmazione fino al 2013, purtroppo la legge della domanda e dell'offerta in questo senso è inesorabile. Evidentemente non c'era una programmazione sufficiente. Vabbè. Perché questo teatro ci potesse sostentare, e quindi basta. Poi... con questi assistenzialismi. Basta. Vabbè, Stefano Reggio Emilia. Stefano Reggio Emilia, dica. Mi sente? Sì, sì. Buonasera Corzani, complimenti. Vada, vada. Niente, io volevo intervenire sul discorso di Moretti, molto semplicemente. Moretti, se non è contento della sua retribuzione, lascia il suo mandato, va e vede la fila che ha domani mattina davanti all'ufficio curriculum, quanta gente si presenta. Ma chi è quel manager, quell'imprenditore che si trova ad operare in un mercato dove c'è praticamente, dove non c'è concorrenza, perché sono due attori che se si mettono d'accordo... Sì, ma non è che negli altri mercati delle ferrovie ci sia tutta questa concorrenza, negli altri mercati del mondo. Però Cruciani, siccome lui si lamenta, lui non... Ma non è che si è lamentato, devo dire che dal punto di vista della comunicazione è stato sicuramente intempestivo, un po' irruento, è evidente che se la poteva risparmiare, anche perché non c'è un piano preciso di Cottarelli di tagliare lo stipendio di quel tipo di società come le Ferrovie dello Stato, ancora non c'è. Appunto per quello. Vabbè, comunque, ma questo appartiene al mondo della comunicazione, nel merito ha ragione, al 100%, ma perché il capo delle Ferrovie dello Stato, che ha delle responsabilità pazzesche, non può guadagnare 800.000 euro l'anno? Qual è lo scandalo? Mi dice mio amico Nuzzi 70.000 euro al mese per un dipendente dello Stato, ma è un dipendente sui generis dello Stato, non è un dipendente pubblico normale. Parenzo, ma non c'entra questo, c'entra il fatto che siccome si accusa sempre la politica di non decidere mai niente di concreto, questa volta la politica, cioè questo, il governo Renzi se non altro, nel bene o nel male, una cosa l'ha decisa, cioè ha detto che gli stipendi dei manager pubblici, non privati, vabbè, ovviamente, anche se anche negli Stati Uniti... Vabbè, ti accodi anche tu, dai, ti accodi anche tu alla canea, dai. Ma quale canea? Esprimo un parere, poi tu difendi il tuo amico Moretti e va benissimo. Ma non è questione di amico mio, lo conosco certamente, può commettere degli errori e può fare delle case... Senti, è un bravo manager, ha fatto un ottimo lavoro. Dopodiché, se non gli garba, prende, va in Germania a dirigere... Perfetto, Giovanni da Campobasso, ho capito, Giovanni da Campobasso. Sì, Luciani, buonasera. Due cose, una per Parenzo e una per te. Aspetti prima un attimo allora, Parenzo. Aspetti, ci sentiamo tra un attimo. Ma sicuramente se verrebbe in Abruzzo è un onore per l'Abruzzo avere Berlusconi lì, tra gli abruzzesi. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Voglio dare un annuncio, caro Parenzo, poi entreremo nei dettagli nella giornata di lunedì. La prossima settimana metteremo all'asta, ancora non è dato sapere il numero di magliette, metteremo all'asta per beneficenza un tot di magliette, un numero imprecisato di magliette di Razzi. Te lo dico d'amico, fatti i cazzi tuoi. Grande asta in diretta con la partecipazione di Antonio Razzi, grande asta in diretta, le magliette, e voi andranno in beneficenza naturalmente i quattrini, e poi se ne occuperà Razzi, che a me la beneficenza non è che mi piace tantissimo. Come ha detto oggi credo l'amministratore delegato di Google, non so che cosa, dare i soldi in beneficenza è un errore clamoroso, bisogna darlo agli industriali, bisogna dare soldi agli industriali, dare i soldi in beneficenza è una cretinata, non serve a niente, bisogna darlo alla gente creativa che produce lavoro, non ai mi poveri. Mi sembra una provocazione idiota. Ma sì, ma tu è il solito pauperismo ridicolo. Sì, pauperismo, vallo a dire a chi ha bisogno che ti prenda a calci nel sedere, giustamente. Adesso te la riprendo questa cosa qua, David? Sì? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Così, tanto per... Sì. Diglielo ai milioni di poveri che ci sono, che vediamo se vengono... Ma che c'entra? Dillo ai poveri! Sai solo rispondere così, dillo ai poveri! Cioè, questa roba su Moretti, le reazioni che ci sono, al di là, ripeto, degli errori di comunicazione che ci possono essere di Moretti, che forse ha sbagliato a intervenire su una questione su cui ancora non si sa nulla, sono di un pauperismo rivoltante, questa cosa qui in cui la gente si ribella perché c'è sta quello che guadagna 800.000 euro. Dai, su. Ma quello prima di lui che ha gettato nelle disgrazie le Ferrovie dello Stato, o quello che è, guadagnava il doppio, un sacco di soldi in più, dai, su. Ma perché un manager di una grandissima azienda non può guadagnare quelle cifre? Poi se fa male non deve andare via con i bonus, non deve andare via con le buonuscite e deve essere cacciato a calci nel sedere. Allora, Giovanni da Campobasso, eravamo con lui, dai. Sì, buonasera Giuseppe, mi senti? Sì, dimmi, dimmi. Allora, Parenzo la deve smettere. Perché ce l'ha con il Movimento 5 Stelle. Il popolo italiano l'ha mandato là al Parlamento. Al Parlamento c'ha diritto tutti quelli che il popolo italiano manda al Parlamento. Io da ragazzino, sì, negli anni 60, avevo 5, 6, 7, 8 anni, sì, tagliavo la stella sulla bandiera Partito Comunista Italiano. Non la stella, la separavo. C'ho un lenzuolo bianco, tutto di stelle, tutto tagliato da quella bandiera. Ma perché tagliava? Perché tagliava sta bandiera comunista? Scusa. Ecco, ti spiego, perché il resto che rimaneva, cioè salvavo la stella, perché le stelle sono la bellezza dell'universo. Vabbè, ma che c'entra? Il resto di quella bandiera la mettevo al posteriore delle mucche. Ecco, e questo è per Parenzo. No, ma chi c'entra Parenzo? Scusi, se lei era matto, però, se lei è matto, non è che poi la colpa è nostra. Scusa, la colpa in questo caso non è di Parenzo. Se lei tagliava la stella della bandiera comunista, la metteva sulle... Non tagliavo la stella, separavo la stella. Separava la stella e la metteva dove? Su addosso alle mucche? No, le stelle, c'ho un lenzuolo bianco, tutte di quelle stelle tagliate da quella bandiera. Ma perché? Perché era anticomunista lei, perché? Io non sono anticomunista, a me mi fa schifo il comunismo, mi fa schifo schifo il fascismo, sono tutte dittature che hanno portato miseria e fame. Ho capito, vabbè, Giovanni, che vuole aggiungere? Ecco, voglio dire, quando tu dici che la Fornero ha fatto bene ad alzare l'età pensionabile... Benissimo, poi ha commesso degli errori, però... Ecco, ha fatto benissimo secondo te, però... Siccome che tu e tutti quelli come te non patiscono la fame, beh, per fortuna no, non ce n'è. Mi devo vergognare? Mi devo vergognare di non patire la fame? No, non è che ti devi vergognare. Anche lei, anche tu non patisci la fame, mica fai la fame anche tu, Anche tu non credo che tu fai la fame, Io sto facendo la fame, sono 7 anni che non lavoro, caro Giuseppe. Io avevo 50.000 euro, sono finiti, si stanno finendo, sono rimasto con 3-4.000 euro. Io non so quando mi finiscono questi soldi, come devo fare per sopravvivere. C'ho 57 anni, arrivare a 65. Cioè, quanti soldi ti rimangono? Sei disoccupato? Sono disoccupato da 7 anni, caro Giuseppe. Come hai campato in questi 7 anni? Con quello che c'avevo da parte. Con quello che quanto ti rimane? E mi rimangono 2-3 mila euro. E poi che fai? Non lo so. Vengo da te e dico: Giuseppe, mi fai mangiare? Almeno a mangiare, mi fai mangiare tu a casa tua. Te butti di sotto, che fai? No, non mi butto di sotto, non sono mica scemo io. Qua nel Molise, caro Giuseppe, nel Molise è un cimitero di. Chiedi aiuto a Di Pietro. Parenzo, che vuoi dire? No, persone così, poi vanno dalle persone come te che hanno detto che non hanno bisogno di aiuti o di beneficenza. Vengono Ho riportato le parole dell'amministratore delegato di Google, amico mio, su cui sono d'accordo, su cui sono d'accordo. Ma mica io ritiro le parole come fai tu, mica sono un codardo come sei tu. Larry Page, stai zitto, Larry Page che dice no alla beneficenza, è meglio lasciare tutto ai capitalisti. Larry Page è un miliardario che in questo caso ha detto una stupidaggine. Ma che cosa vuol dire? Perché un miliardario non ha diritto di parola. Vabbè, Francesco da Cagliari. Buonasera Cruciani, dimmi, un saluto alla buonanima di Parenzo, vorrei ricordargli... mica è morto, Vorrei ricordargli la fine che ha fatto Forbice dopo che dichiarò che chi seguiva Grillo era un allocco. Chiudendo la telefonata in faccia. Ma mi sembra che conduca qualche un altro zapping, è diventato 2.0. Ma adesso non è che ti stai augurando che Parenzo... A me mi aveva tirato lo sacquone prima delle elezioni, dicendo che il movimento non avrebbe fatto niente, che finiva tutto nel cesso. Lo sacquone gli avevo detto che infatti era forse l'emblema di quello che avrebbe il sistema, sarebbe finito quello sciopero. Vabbè, sei incazzato con Parenzo per quella frase che ha detto? Ma non solo quella, lo fa sempre, usa questo snobismo, questa supponenza sul movimento che si vede lontano un miglio, che è una posizione prezzolata, il classico pretapensere a pagamento prezzolato. Perché difendere questo sistema non va per niente. Ma no, abbiamo la supercazzola di Renzi, dalla mattina alla sera dice una cosa e poi ne fa un'altra. Abbiamo 120.000 leggi, ce le meritiamo tutte, perché stiamo dando credito a uno che vuole fare ancora nuove leggi e le vuole fare ancora più in fretta. Non è che mi stai dicendo che dobbiamo toglierci delle leggi per togliere la burocrazia, magari, perché non si può vivere con 120.000 leggi. Dov'è la sovranità del cittadino? Se devi sottostare ed essere soggiogato. Però Francesco, scusa, adesso tu stai parlando di Renzi. Parenzo ha detto una frase, poi ha specificato, ha detto i grillini, cioè Grillo ha portato in Parlamento della gentaglia, poi dice mi riferivo a una questione culturale, culturalmente una gentaglia dal punto di vista culturale. Alcuni sicuro. Ma non hai detto sicuro. Alcuni, hai detto Grillo ha portato in Parlamento della gentaglia. Ma perché uno non si deve prendere responsabilità di quello nella che dice? Nella semplificazione che fai può essere... Nella semplificazione. Francesco, tu che segui la Zanzara, mi sembra, cosa hai sentito? Ho sentito che proprio ha sempre denigrato, ha sempre fatto il supponente con gli eletti 5 Stelle, come se non fossero niente, fanno un lavoro, lavorano lì dalla mattina alla sera, sono gli unici che stanno lì anche il fine settimana, che saltano i pranzi, io li ho visti con i miei occhi. Lavorano per cercare di tutelare i diritti dei cittadini, non le lobby, non le massonerie, le banche, le multinazionali o l'Unione Europea. Vabbè, ho capito. Per la comunione, non per l'unione. Grazie Francesco, grazie. Antonio, provincia di Napoli. Antonio. Buonasera, mi sente Cruciani? Dica. Allora, la chiamo per quanto riguarda la questione del presidente della Ferrovie dello Stato. Lui ha perfettamente ragione Parenzi, mi dispiace dirlo, nel senso che Renzi assolutamente non gli giurava lo stipendio, perché Renzi è uno che lecca il culo alle poteri, agli imprenditori e ai poteri forti, quindi non glielo ridurrà. Detto questo, bisognerebbe dire a quel signore che oggi fa l'amministratore delle Ferrovie dello Stato, uno che è sicuro che i suoi bilanci sono in attivo, perché la questione è questa: noi abbiamo una serie di manager pubblici che hanno bilanci in passivo e si fanno pagare l'ordine di Dio. Vabbè, ma adesso non stiamo lì a fare le pulce a Moretti. Ha detto una cosa sacrosanta, secondo me, che il suo omologo, sono fatti, non è che sono opinioni, il suo omologo in Germania guadagna tre volte tanto. Punto, molto semplice. Ma preso un treno in Germania, non so come. Vabbè, ma adesso, ma che vuol dire? Ma anche le ferrovie italiane, anche sui treni italiani, diciamo, per quello che riguarda l'alta velocità si viaggia bene. Il resto ci sono questioni che riguardano le regioni, altre cose, dai, su. Non regionale in Germania. Ma lo so benissimo, lo so benissimo. Michele da Bologna, grazie Michele. Pronto, buonasera. Dica. Pronto? Sì. Allora, niente, volevo rifarmi un po' all'intervento che ha fatto l'ascoltatore prima, cioè parlando di Moretti, insomma, che prima di lamentarsi e fare dei paragoni con i suoi colleghi all'estero dovrebbe guardare i risultati. Poi sono d'accordo con lei che non ci deve essere un tetto massimo per quanto riguarda gli stipendi del manager. Se il manager vale e porta annualmente dei risultati validi, è giusto che guadagni anche di più. Io niente, volevo dire solo questo, volevo dire. Va bene, grazie, grazie, ciao. Grazie. Tommaso Torino. Buonasera. Dica. Ma intervengo semplicemente perché ho trovato veramente fuori luogo l'intervento di ieri di Parenzo sui presunti, cos'è che ha detto in merito agli eletti del 5 Stelle. Grillo ha portato gentaglia. In Parlamento della gentaglia. Sì, insomma, non mi ricordo, vi seguo spesso, non mi ricordo un analogo intervento nei confronti. No, se l'è presa con tante altre persone, adesso diciamo la verità. Se l'è presa, sì, con i leghisti, con quelli di Forza Italia. Dovrebbe essere un po' circostanziato, allora se sa che c'è gentaglia è come che darsi che ce ne sia. Ho detto no, culturalmente alcune persone. Ma lasciamo, no, guardi, la toppa, cioè la pezza che ci ha messo è peggio del buco, perché cosa vuol dire culturalmente gentaglia? Cioè ognuno dà la sua versione. Che sono, no? Ma mi sembra chiaro che cosa ho detto. Se lei ritiene normale che un deputato della Repubblica dica che ci sono dei... però va bene, è legittimo, se a voi piace questo va benissimo, ma infatti bene che ci siano anche loro. Io credo che alcuni di loro culturalmente siano persone onestissime. Tu stai adesso stai specificando una cosa che non hai detto, cioè una cosa che francamente non hai detto. Hai detto Grillo ha portato in Parlamento della gentaglia, appunto, poi hai detto culturalmente, no, parlando. Ma anche per, io guarda, ti dico anche di più. In passato, siccome poi mi dicono che sono snob, cosa che non è assolutamente vera, no. Il Partito Comunista Italiano in passato, come la Democrazia Cristiana, portò in Parlamento un fior fiore di operai. C'era un grande operaio che si chiamava ad esempio Aris Accornero, che poi è diventato uno dei più grandi intellettuali italiani. Vabbè. Che era un operaio che rappresentava una che parte della classe adesso? Operaia. Allora, non è vero che per andare in Parlamento devi essere soltanto avvocato, grande manager, ingegnere. Io non ho mai sostenuto questo, né mai lo sosterrò, perché il Parlamento deve essere lo specchio dell'Italia. Certo che se a voi piace, tu in particolare che li hai votati, vi piace persone che reputano davvero che ci sono i microchip messi dagli americani sotto pelle e altre puttanate che abbiamo sentito in questa simpatica e divertente legislatura, se a voi piace questo, benissimo, è rappresentata anche quella parte di società ho capito. Che sotto pelle gli americani ci hanno messo dei microchip. Vabbè, se vi piace, ha ragione l'ascoltatore di prima quando dice che, com'è si dice in veneto, il tacon è peggio del buso, che cos'è, la toppa è peggio del buco. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. Oh. Cusciano, hai una superficialità che mi fai andare fuori di testa. Sì, è vero, perché tutti gli anchor, così si dice, i conduttori radiofonici devono tagliare, non è che stanno lì a menarla troppo, eh. È con noi per parlare soprattutto della vicenda Moretti. Sono curioso di sapere come la pensa Chicco Testa. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Allora, ecco, Chicco Testa, ad esempio, è culturalmente non centaglia. Vabbè, ma tu sei subito pronto a fare i salami. Altri che noi intervistiamo sono spesso culturalmente centaglia. Probabilmente questo. I grillini pensano che invece Testa sia un poco di buono, sia centaglia. Ma comunque, a parte questo lo pensano, confermo. Lo pensano. Senti, Chicco, ti chiedo subito una cosa, ma Moretti. Ma come Chicco? Io... Ma che è tuo fratello? Vabbè, gli do del tu perché è inutile fare dell'ipocrisia. Allora, ci conosciamo. Allora, io ho detto, lui è stato Moretti, probabilmente irruento, ha sbagliato nel modo di comunicare, perché non è che gli hanno comunicato già quanto sarà tagliato il suo stipendio. Dunque, non era il caso magari di fare questa uscita un po' intempestiva. Dunque, dal punto di vista della comunicazione, possiamo dire 5. Però nel merito ha ragione lui, cioè il suo omologo in Germania ha portato delle cifre, dei dati, guadagna 3 volte tanto. Un tipo di aziende come le Ferrovie dello Stato, dove ci sono grandissime responsabilità, dove se si firma una cosa si può andare in galera, e peraltro rischia pure per una vicenda in cui non so nemmeno se c'entri molto, la vicenda di Viareggio, rischia tantissimo Moretti. Uno non può non guadagnare dei grandi soldi, o no? Allora, prima di tutto io penso che Moretti abbia fatto un grande lavoro. È facile criticare, ci sono tante cose che non vanno, ma pregherei tutti di ricordarsi com'erano le Ferrovie dello Stato 7-8 anni fa. Le ha messe in ordine, si capisce che c'è una persona con le idee chiare, una persona che comanda e che tiene sotto controllo la struttura. Magari non amatissimo, perché è anche un po' burbero, sì, è un po' cattivo, però ha fatto un grande lavoro. Secondo, è vero che nelle aziende di queste dimensioni manager importanti, gli amministratori delegati eccetera eccetera guadagnano molto, e in Italia qualche volta guadagnano meno che in altre parti del mondo. Sì. Terzo, io sono contrario a mettere dei tetti. Ho davanti agli occhi cosa è successo in Francia, dove il fatto che sono stati messi i tetti agli amministratori delegati di aziende enormi come EDF, sì, ha prodotto il risultato che, siccome il capo guadagna una certa cifra, quelli sotto devono guadagnare ancora di meno, il risultato, i manager se ne vanno da altre parti perché esiste un mercato mondiale e la gente viene pagata meglio magari in altre parti del mondo. Quarto, faccio un'osservazione però. Dobbiamo tutti darci una misura, perché purtroppo stiamo svolgendo questo lavoro in un paese che è un paese sofferente. Cioè, vuoi dire che Renzi fa bene a chiedere un sacrificio anche a Moretti? Dico che Renzi fa bene a dire a tutte le aziende, perché qui si parla di Moretti, sì, ma vabbè, certo, a dire: ragazzi, io non vi metto un tetto, però datevi una misura. Datevi una misura. Ecco, questo penso che sì. Insomma, beh, però concretamente, secondo te, se Renzi gli proporrà di tagliarsi lo stipendio, posto che non è in scadenza Moretti, perché non è... Secondo me Moretti è una persona intelligente, accetterà, anche perché qualcuno dice, un po' malignamente, dov'ha Moretti? Cioè, Moretti è una persona che oggi può andare da qualsiasi parte. Cioè, nel privato può andare da qualsiasi parte? Assolutamente sì. Cioè, c'è gente disposta a tirar fuori, che ne so, mezzo milione, 600.000 per Moretti? Ma sì, assolutamente sì. Senti, ma ai tuoi tempi tu quanto guadagnavi quando eri... Non c'erano i tetti, la guadagnavi un sacco di soldi, Chicco? No, assolutamente no. Guarda, quando io fui nominato presidente dell'Enel, andai, mi chiamò Draghi, che allora dirigeva tutto il settore delle ex partecipazioni statali, e mi disse: quanto guadagna lei? Io guadagnavo allora 200 milioni, 100.000 euro. E mi disse: bene, glielo raddoppio. Passai a 200.000 euro. L'amministratore delegato dell'Enel, che era Franco Tattò, guadagnava il doppio di me, 400.000 euro. Poi è vero che nel corso degli anni, ricordo che l'Enel, nei tempi diede allo Stato italiano qualcosa come 50.000 miliardi di lire di allora tra privatizzazioni, dividendi, sì. Mentre prima aveva sempre chiesto allo Stato, no, negli anni i nostri stipendi sono molto migliorati, ma sicuramente sono rimasti in cifre molto contenute rispetto a insomma, comunque la cosa che hai detto interessante è che se Mauro Moretti si mette sul mercato in realtà il posto lo trova assolutamente, sì, ne sono, penso che gli farei io un contratto addirittura lo assumeresti tu? insomma in un paio delle aziende in cui lavoro Moretti sarebbe molto utile. Parenzo, che stai a fare? Stai a dormire? Dormi? Bene. No, stavo ascoltando. Intanto Sei circondato da indipendentisti del Veneto là, ecco, parla piano. Allora, qui adesso hanno appena dichiarato, io non mi sono accorto però, dell'indipendenza del Veneto. Ora, la cosa divertente Parenzo ha ragione su una cosa, lo posso dire. Su che cosa ha ragione? Su che? No, che la vituperata Prima Repubblica aveva però meccanismi di selezione del personale politico e di chi finiva in Parlamento che inevitabilmente premiavano i migliori, no? Oggi il sistema di reclutamento da qualche parte, per esempio dalle parti citate da Parenzo, 5 Stelle, sembra affidato alla casualità più assoluta. Vabbè, ma non è che il resto invece no, sia... No, ma possiamo dire di più? Possiamo dire di vabbè, più? Vabbè, adesso vi accanite contro i 5 Stelle, dai. Possiamo dire che questa idea falsa... No, sto dando una mano a Parenzo, che mi sta simpatico. Ecco, no, vabbè. Ma posso dire questa idea falsa e stupida della cosiddetta democrazia del web? No, ma anche secondo me, io su questo ti do ragione. Come direbbe Fantozzi che è una puttanata mega galattica. Che cos'è questa cosa del web, testa? Una puttanata colossale? No, non è una puttanata colossale, ma se viene applicata con criterio, se viene applicata invece come una specie di pesca miracolosa in cui butto la rete e chi mi viene, è certo che è una puttanata. No, vabbè, adesso non avere paura. Secondo te il modo di reclutare i parlamentari attraverso le parlamentari e la selezione sul web è una cagata pazzesca, diciamola ma, tutta. Scusa, c'è gente che mi risulta che sia stata scelta, prescelta con qualche centinaio di preferenze, ma se pare possibile. Esatto. Allora, io però dico una cosa, a testa che mi pare piuttosto renziano, non per la questione Moretti, assolutamente, ma... sì, ecco, sei molto renziano anche tu, vabbè, sei diventato renziano e noi sai che per mestiere io devo fare il conduttore di una trasmissione in cui bisogna essere sempre un po' contro, però in realtà credo a tutte le cose che che in cui dico, non è che lo faccio come maschera. Allora, la questione per esempio degli F-35, la questione di Cottarelli, ma lì Renzi non fa Renzi, lì Renzi balbetta, ma come si fa? La questione degli F-35, o decidi che il contratto non si deve fare più e lo dici chiaramente, altrimenti non è che dici no, congeliamo, fai dire al ministro della difesa che forse bisogna pensarci, aspettare, riflettere, ormai si è già riflettuto abbastanza, o servono o non servono, decidi Renzi o no? Sono abbastanza d'accordo con te, anche perché ho visto calcoli abbastanza precisi che quello che noi guadagniamo dalla commessa F-35 in termini di lavoro, sì, esatto, di lavoro per maestranze specializzate, diciamo è pari almeno a quello che spendiamo, quindi noi ci tagliamo fuori da un progetto tecnologico molto molto importante. Cioè, fosse per te, fossi Renzi, e non so se te lo auguri, io prima non li avrei tagliati gli F-35, poi non faccio il Presidente del Consiglio fortunatamente per me, e capisco che ci sono problemi e che magari fa più comodo la gallina oggi dell'uovo domani, questo bisogna poi qualche sponda a sinistra bisogna sempre e poi tenere. C'è quel problema di qualche sponda a sinistra, ma scusami, oggi ho fatto una polemica, aspetta, no? torno tra un attimo, me la racconti un attimo, pubblicità. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara danza. Io sono pietanza. No alla beneficenza, meglio lasciare tutto ai capitalisti. Parenzo dice che è un ricco e non può parlare così. Io sono sicuro che chi contesta dà ragione al signor Page. No, non do ragione no, al signor ecco, Page. No, ecco l'anima di sinistra. No. Il vecchio comunista, dai. No, non do ragione nemmeno alla beneficenza. Do ragione a iniziative come quelle di Bill Gates che hanno trasformato la cosiddetta beneficenza in programmi seri, analizzati, con investimenti fatti bene che creano ricchezza e combattono le malattie. Vabbè, ma quello è scontato. Sono contrario a finanziare così queste centinaia di associazioni che si mangiano poi il 50% dei soldi che gli dai in spese di struttura o in programmi che hanno scartato. Allora Larry Page scrive, però più o meno quello ha detto, quello che più o meno dici tu, no alla beneficenza, allora, è meglio lasciare alla propria morte i propri soldi a capitalisti con grandi idee, idee in grado di cambiare il mondo, come il fondatore di Tesla, Elon Musk, eccetera eccetera, cioè non dare agli enti, tu dici alla Caritas, che ne so. Ce n'è una miriade, la Caritas magari fa anche un servizio utile, ma ce ne sono tantissime di queste ONG che presentano bilanci basati su niente, si mangiano una buona parte dei soldi per mantenere se stessi o per le proprie spese di struttura. Ma no? Tu non fai beneficenza o no, Ghicco? Sì, la faccio in questo senso, guarda, scusami, non voglio fare della demagogia, ma basta che uno si guarda. Allora, preferisco dare 200 in più, 200 euro in più alla signora che lavora a casa mia e che ha 3 figli a casa da mantenere, è chiaro, e sono sicuro di dove finiscono questi soldi, piuttosto che affidarli a degli estranei di cui conosco poco e so poco. Se volete fare della beneficenza, cioè tu lo fai in questo modo, la beneficenza, sì, cioè, se volete ma io faccio delle altre cose, parlo per esempio delle borse di studio per degli studenti che hanno problemi, ma se volete fare del bene guardatevi attorno, che c'è tanta gente che conoscete bene che sta attorno a voi. Ma che stavi dicendo prima della pubblicità? No, volevo raccontare una cosa, perché adesso c'è questo problema, la crisi con la Russia, l'Ucraina, eccetera, eccetera. No? E come tu sai, noi importiamo l'80% della nostra energia. Allora, in tutti i paesi al mondo in cui c'è del petrolio, questo viene considerato una fortuna, una benedizione. Dice, cazzo, abbiamo il petrolio. No? In Italia no. In Italia no. Mentre c'è la crisi con l'Ucraina, eccetera, eccetera, i nostri senatori richiedono una moratoria completa sulle estrazioni di petrolio nel nostro paese. Sì, cioè, sì, sì. È come proprio buttare i soldi dalla finestra. Questo in un paese in cui tutti si lamentano perché non c'è lavoro, non ci sono investimenti, eccetera, eccetera. Siamo fatti male. Senti, ma fosse per te, Renzi dovrebbe tornare al nucleare, secondo te? No, in questo momento parlare di nucleare in Italia è assurdo, per tanti motivi. Che anche non se la Guidi un po' l'ha detto, il ministro dello sviluppo economico. No, non l'ha detto la Guidi. Guarda, soprattutto in questo momento in Italia abbiamo un eccesso di potenza elettrica, perché la crisi ha fatto sì che i consumi elettrici sono diminuiti anziché crescere. Quindi di nuove centrali non ne abbiamo bisogno. Senti, Parenzo, dove sei? Che fine fa? Aspetta, Ghicco. Guarda, ero sotto il palco con gli amici indipendentisti. Aspetta che te ne passo uno, però. Un indipendentista del Veneto, aspetta un attimo. Come si chiama? Quello che ha guidato il tank, nel 97, uno scoop che ti faccio. Ottimo. Comandante, venga un secondo per cortesia. Come si chiama? Ha guidato intanto devi chiamarlo comandante. Sì. Perché è il comandante, è il comandante che ha guidato il tank, il tank nel 97. Si chiama Luca Peroni, vero? Lei è il comandante? Sì, sì. 4 anni di carcere lei ha fatto. 4 anni, 9 mesi più altri 6 mesi. Passamelo un attimo. Te lo passo in diretta in esclusiva alla Zanzara, il comandante del tank Luca. Veneto, libero, Veneto. Fuori l'Italia dal Veneto. Aspetta un attimo. Tieni. Fuori l'Italia dal Veneto, bene. Speriamo non con le armi però. Peroni, comandante? Sì. Comandante Peroni, sull'attenti. Mettiamoci sull'attenti. Siamo tutti questa sera. Mettiamoci tutti sull'attenti. Ma senta, 4 anni di carcere non le sono bastati? Come sono passati? Non le sono bastati 4 anni di galera? Beh, ma guardi che stiamo facendo una dimostrazione democratica, mi sembra. No, adesso sì, ma lei è pronto di nuovo a imbracciare, come dire, le armi, a ritornare su un tank, a ritornare su un carro armato per l'indipendenza del Veneto o no? No, guardi, ci sono due strade per liberare Veneto. Qual è? C'è la strada delle armi e quella pacifica della democrazia. Noi abbiamo deciso di seguire quella pacifica della democrazia con il referendum per l'indipendenza. Ma lei si pente di quello che ha fatto quando salì su quel carro armato? No, è per carità. No. E allora scusi. Cruciani è di Roma, venga presente solo qui. Vabbè, che c'entra? Il comandante deve saperlo. Ma scusi. Noi non ce l'abbiamo con i cittadini di Roma. No, ci mancherebbe. Però lei mi diceva prima che Cruciani è un po' un cretino superficiale, no? Mi ha detto lei prima, sbaglio? No, io non l'ho detto. No, l'ho detto io, scusi. Però scusi, Peroni, io voglio dire una cosa. Se lei non si pente di quello che ha fatto, di essere salito su un carro armato, era una dimostrazione di forza, eccetera, eccetera, significa che ancora qualche piccola arma la userebbe per l'indipendenza. Cioè, per questo grande sogno che è l'indipendenza del Veneto, si possono usare anche i fucili e le pistole o no, comandante? No, noi usiamo l'arma democratica del referendum. E se non ve la danno? Ce la daranno, perché con questi numeri sono sicuro che adesso nelle corti internazionali qualcuno si muoverà. Però, comandante, e abbiamo già indicazioni anche in qualche paese dell'est che ci sta osservando da molto vicino. E che fanno all'est? Ci stanno osservando. E vabbè, per il momento ci stanno osservando. Vi stanno osservando, pazienza. Allora io ti dico che qui c'erano due giornalisti della TV russa, vabbè, ti credo. Russia 24, che prima mi hanno anche intervistato. Pure. Sì, perché volevano capire la situazione, ma erano un po' perplessi i russi, però, che erano davanti al comandante Peroni. Sì. Vabbè, comandante, mettiamoci sull'attenti, mi raccomando, prendiamo i carri armati presto, se non vi danno, mi dica una cosa, se non vi danno l'indipendenza, non so chi, le corti internazionali, Napolitano, eccetera, lo prendiamo sto carro armato o no? No, l'indipendenza ce la daranno con la via daranno. Democratica. Ma abbiamo questo... scelto la via democratica. Lei c'ha una paura di tornare in carcere che sta fa sotto? No, non ho paura di tornare in carcere, però quello... L'atto del 97 è stato un atto dimostrativo che non ha più senso in questo momento. Vabbè. Comandante, okay. A presto, arrivederci. Ammazza la zanzara. Eravamo sempre con Chicco Testa. Voglio chiedere a Testa. Vabbè, qui siamo alla follia, sta cosa di indipendenza del Veneto, secondo lei è una cosa seria? No, non è una cosa seria, evidente. No. Vabbè, però quando 1,5 milioni di persone, quelle che sono quasi due, scrivono vogliamo l'indipendenza del Veneto, qualcosa significherà? Questo Stato depreda la gente con le tasse, questo è il segnale, la gente non ne può più da questo punto di vista, anche piccoli e medi imprenditori, questo bisogna... Su questo siamo d'accordo, ho capito. Siamo d'accordo, ma guardi, le posso dire una cosa, anzi ti posso dire una cosa, io ce l'ho più che con le tasse, con la burocrazia. Con la burocrazia, sì. Ma certo. Attenzione, la burocrazia, non pigliamocela con i burocrati, pigliamocela con coloro che riversano sui burocrati milioni di norme che i burocrati devono applicare. Se tu dai a un burocrate 50 adempimenti da certo, seguire, diventa un re, questo diventa un re. Come un pesce dentro il lago. Se tu guardi la produzione parlamentare degli ultimi 2 o 3 mesi, è vergognoso. Mentre si parlava di sburocrazia, hanno tirato fuori tonnellate di nuove norme che vincono l'attività dei cittadini, delle imprese, delle famiglie, eccetera, eccetera. Dimmi una cosa, Chicco, ma se Grillo vince le europee, come dice, sostiene che il governo si deve dimettere, eccetera, è un pazzo, è uno pericoloso da questo punto di vista? Chiederò l'indipendenza di Trastevere dove abito. Cioè, non ho capito. se Grillo prende il potere, tu scappi dall'Italia, per esempio? Sarei molto preoccupato. Cioè, scapperesti, ti trasferiresti all'estero domani? No, scappare. Però trasferimento all'estero è qua... O no? Però chiederei l'indipendenza di Trastevere, no? Lui chiede l'indipendenza del Veneto, noi possiamo chiedere l'indipendenza di Trastevere. Senti, no? ma Madia, secondo te, incinta, può fare il ministro della funzione pubblica in maniera così impegnativa? Questo è un discorso difficile. No, però dimmi la verità, quella che ti senti, non fare il diplomatico. No, sì, te la dico, cioè il lavoro della Madia è il lavoro forse più difficile e più impegnativo tra quello tra quelli dei miei studenti. Indubbiamente lei in questo momento deve avere una preoccupazione fondamentale per la sua salute e per la salute di suo figlio. Dunque, secondo te non è in grado di fare bene il ministro? Non è in grado, non lo so. Io onestamente non avrei fatto questa scelta, lo dico con molta... Ma non per la Madia, no, per una persona incinta, per una persona incinta. È una persona che in questo momento deve avere una preoccupazione principale diversa da quella per cui gli è stato assegnato l'incarico. Parenzo? Allora, ascoltami, ho beccato qui per l'indipendenza del Veneto anche il signor Ruggero. No, no, sì, ma non ne posso più, non è possibile. Ruggero, ma dai, pure per l'indipendenza, dai, su. Saluta cruciale, Ruggero. Un saluto al combattente per la libertà dell'Italia tradizionale cattolica, Cruciani. No, ma quale tradizionale cattolica? Io sono libertino. Parenzo è come Renzi, solo una sana, com'era la canzone di Zucchero, solo una sana e consapevole follia, libidine salve giovani dall'azione cattolica. Esatto. No, Ruggero, lei che è dell'associazione Sacrum Romanum Imperium e pensa che i gay vadano bruciati in piazza, perché questo lei pensa sostanzialmente? No, io ricordo che a Venezia si bruciavano in piazza, non è che lo dico. Vabbè, no, non è che se lei lo dice, non è che non è che la cosa cambia molto, Cioè, allora, che cosa ci fa lì? È pure a favore dell'indipendenza del Veneto? Oh, certo, ma perché è una battaglia storica del mondo tradizionalista cattolico, quello appunto contro il Risorgimento. Ruggero, noi abbiamo comitato che è operativo da quando Cruciani aveva le braghe corte, che è quello delle Pasque Veronesi, cioè che ricorda l'insurrezione di Verona contro Napoleone, mi sembra perfettamente logico essere qua. Semmai con Cruciani ci rivediamo a Veneto fatto, che facciamo due conti. E anche scusi, con ma mi fate entrare in Veneto? Io e Chicco Testa, possiamo, che siamo due che sono a favore del matrimonio per gli omosessuali, siamo a favore della legalizzazione delle droghe leggere. Ma voi siete due lacchè di regime, cambiate parere domani lacchè mattina. Di regime. Quando il Veneto è indipendente ci fate entrare a me e Chicco Testa? Ma ci fate entrare o no? Ci fate entrare o no in Veneto? Sì, basta che cambiate testa, non c'è problema. Sì, no. Cambiamo testa. Scusami, posso ricordare una cosa, Cruciani? Quando in Italia c'è stata la controriforma nel 600 e si finiva davanti all'Inquisizione sui roghi, il Veneto, era la Repubblica Veneta, era una terra di libertà per tutti coloro che fuggevano dal papato. Bravo, bravo. Ecco, oggi sentire che è finita così con queste affermazioni veramente mi fa venire mal di pancia. Sì, ma chi con te sarà presente, è il solito laicismo d'accatto che non se ne può importare di niente. Ma noi vogliamo la Venezia tradizionale. Ma quale Venezia tradizionale? Senti, spiega a questo signore che io sono nato nell'Alta Valseriana, provincia di Bergamo, sono molto più pedemontano, padano, eccetera, eccetera, di lui. Lei è un uomo della Rivoluzione francese. Guardi, i bergamaschi hanno fatto addirittura la Repubblica Bergamasca. Lei era con questi, probabilmente. Noi eravamo invece con quelli che insorgevano contro di lei. Quindi la cosa è molto facile. Vabbè, ma avete perso, però, Ruggero. Questo è il punto. Ma adesso stiamo vincendo. E questo è il problema, Cruciani. Ma dove? Non so se reso conto. Ma persino il Papa, adesso, persino il Papa non è più tradizionalista. Ma di cosa parlate? Siete pazzi tutti, la Rivoluzione francese. Adesso è arrivato un parente, sistema le cose. Vabbè, un'ultima cosa a Chicco Testa, poi lo lascio. Mamma mia. Mi so pure beva quando si viene qua, non si sa quello che succede. Allora, due paroline sul signor Celentano che attacca Farinetti, però in nome della cultura dice che lui non fa, vuole fare solo denaro, signor Celentano. Ah, e Celentano parla degli altri che vogliono fare solo denaro, ma questa è veramente una la barzelletta del giorno. Ma dai, su, siamo seri, per favore. Celentano, fate della musica, che la fa anche buona, si guadagni i suoi soldi facendo la musica e la smetta di dire fregnacce e sciocchezze su temi di cui non sa niente, non conosce niente, e semplicemente straparla. Mi dispiace, perché io l'ho anche conosciuto, una persona personalmente simpatico, ma tutti a una certa età si mettono in testa di essere i guaritori del mondo, no? Lui dice che Farinetti ha rilevato lo smeraldo e l'ha trasformato in un posto dove si vendono le salsicce, invece è un grande centro di cultura. Ma che deve fare Farinetti? Cosa si faceva prima lo smeraldo, prima che lo rilevasse? Ma vuol capire Celentano che lo smeraldo non è più un grande centro di cultura da almeno 20 anni. Esatto. Se lo faccia lui un centro di cultura con tutti i soldi che c'ha, faccia un centro di cultura, che ce ne sarebbe, vediamo cosa succede, faccia l'imprenditore, investa un po' di soldi anziché stare a casa a recepirli, oppure stare a casa ad aspettare qualche contratto dalle televisioni, cioè la Rai o... A presto, ciao Chicco. Grazie, ciao. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, ai, in questo cazzo. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un sorriso, e balli un sorriso, la zanzara twist. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, schiacciala, che... Uno che parla di rivoluzione antropologica, di un personaggio che sa solo dire parolacce, ma andare a fare in culo e candidare della gentaglia in Parlamento. E non chiede manco scusa, Parenzo, eh? David? Scomparso, ora lo riprendiamo, eh? Intanto Gino, provincia di Rovigo. Buonasera. Dimmi. Buonasera, Cruciani. Ho una proposta, un suggerimento da fare. Mandare Parenzo a lavorare in cantiere una settimana e mettere Enrico Lucci al suo posto. Beh, obiettivo, almeno non si rimangia le parole di quello che dice. Che cosa le devo dire io? Un po' se l'hai rimangiata quella cosa sui 5 Stelle. Comunque non sostituisco nessuno. Non voglio proteggere i 5 Stelle, non sono simpatizzante di 5 Stelle, io simpatizzo per altro. Però insomma, Parenzo, ore di qua, ore di là, poi quando gli si presenta qualche sinistroide al telefono, si ringalluzzisce, allora chiede appoggio, lo vedi che è bello, pimpante. Un po' di cantiere non gli farebbe male. Un po' di cantiere non gli farebbe male. Adesso è momentaneamente assente, non può rispondere purtroppo. È momentaneamente assente. Umberto da Milano. Pronto? Umberto, dimmi. Dimmi, io ti facevo una persona molto molto seria, ma ultimamente mi stai deludendo. Sì, perché? Perché io ti seguo tutti i giorni. Sì. Quando si parla del Papa, si deve avere anche un po' di rispetto per la persona che è. Perché? Che è successo? Vabbè, dai, mo c'è quello del tuo team che dice che lui deve mandare per forza sempre sta cosa sul Papa. Ma qual è il problema? Scusa, noi non abbiamo nessun problema. Ma come non è nessun problema? Ma un po' di dignità ce l'avete o no? Ma quale dignità? Ma qui non abbiamo per nessuno, non si preoccupi. Cioè, se il Papa ha fatto una mezza gaffa e noi la rimandiamo in onda, non ce ne frega niente. Può essere pure il Papa, può essere pure Gesù Cristo, che ce frega a noi? Ma basta una volta. Ma basta tutte le volte che vogliamo, basta finché ci stanchiamo noi. Fin quando ci stanchiamo noi diremo basta. Non è che lei ci deve dire quando è giusto o quando non è giusto, quando è tanto, quando è troppo poco. Su. Io li avrei cacciato via tutti e due, a te e il tuo team. Dagli questo consiglio, parlaci, facci a parlare. Ma io non ci parlo perché non ho le conoscenze per parlare. Ma non c'è bisogno di conoscenze. Però ti farci un attimino l'autocritica. Sì, o l'autocritica. Aprire addirittura i vostri armadi e vedere quanti scheletri avete dentro. Ma quali scheletri? Io non c'ho nessuno scheletro. Ma che c'entra poi gli scheletri col fatto che mandiamo il Papa? Anzi, mo te lo mando un'altra volta il Papa, guarda, te lo faccio risentire. In questo caso le provvidenze di Dio. E allora? E allora che? E allora? Sei bravo. Che effetto ti fa? No, io e i tuoi superiori dovrebbero prendere provvedimenti nei tuoi confronti e di quello del tuo team che ha voglia di mandare questa cosa sul Papa. Solo questo. Che provvedimenti dovrebbero prendere, caro Umberto? Di farti abbassare un attimino la cresta e di certi personaggi non bisogna abusarne. Specialmente voi che fate i media, che vi riempite la bocca che siete giornalisti qua e giornalisti di là, non siete nessuno. Confronto a lui, non siete nessuno. Ma che c'entra? Ma chi si paragona al Papa? Ma chi è che si sta paragonando al Papa? E non avete nessun diritto di prendere per il culo un personaggio del genere. Per fortuna possiamo prendere per il culo tutto, finché ce lo permettono possiamo prendere per il culo tutto e tutti, ha capito? Gli altri media, televisione e radio, non ne hanno parlato più dopo quella volta, voi invece tutti i giorni, e questi i vostri superiori dovrebbero prendere in osservazione, quello che fate voi, perché voi vi riempite la bocca che siete giornalisti, molto bravi, ti ritieni un giornalista bravo facendo così? Non ho capito. Ti ritieni una persona brava, un giornalista bravo, mandando sempre questa cosa sul Papa? Vabbè, Umberto, ho capito. Hai detto quello che dovevi dire? Vai da Squinzi, chiedi a Squinzi di prendere provvedimenti. Noi continuiamo a mandare il Papa quando vogliamo. Peraltro non lo mandiamo tutti i giorni. Purtroppo qui di fronte a me abbiamo un antipapista, un tecnico. Io non voglio dare responsabilità a lui, perché ognuno fa quello che vuole. Mette questa cosa, per me non c'è niente di strano, per cui... No, non è un problema, ma non l'ho deciso nemmeno io, ma non mi interessa, tutto quello che va in onda è di responsabilità mia, per cui non c'è problema, hai capito? Stupido, e può cambiare solo le lampadine lui. Ma chi? Solo quello può fare, suo tecnico. È uno stupido e può cambiare solo le lampadine. Sì, solo le lampadine può cambiare, se ragiona in questo modo. Pietro si chiama, insultalo se vuoi. Non mi interessa come si chiama. Beh, non ti interessa. Si può chiamare pure Giuseppe o quello che è, non mi interessa. Non capisci un cazzo. Ecco, ti abbiamo toccato il Papa. Adesso ti abbiamo toccato il Papa e stai lì subito a protestare, a chiamare, dai, su. No, io sto toccando il Papa, io sto toccando il discorso. Ci vuole un po' di serietà. Non vi dovete riempire la bocca che siete giornalisti di fama. Vabbè, ma non c'entra niente, io non mi riempio la bocca. Siete in queste cose banali, stupide, che vi fanno sbassare il livello al piano del pavimento. Grazie, arrivederci, buonanotte, stia calmo. Marco da Roma. Sì, Cruciani. Dimmi. Siamo per due cose, una da dire a te, una da dire a Parenzo non c'è, Massimiliano Bologna, dai. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Io volevo rispondere alla domanda che avevi fatto a testa prima, cioè dove va Moretti se lascia le ferrovie dello Stato? Secondo te sta del mercato? Com'è? Secondo testa a Del Mercato. Sì, l'ho sentito, Secondo me va proprio a fare in culo invece, perché non ha nessuna speranza uno scarso come Moretti di potersi collocare con questi... Vabbè, scarso qua. Secondo lei? Lei ha tutto il diritto di dire che è scarso. Secondo me perché io sono in atto ancora un pendolare, uso molto il treno, conosco le ferrovie dello Stato, utilizzo il mezzo, possiamo parlare di tutto, all'alta velocità, i regionali veloci, i regionali, gli intercity, le ferrovie dello Stato fanno schifo, mediamente è un disastro dappertutto, l'alta velocità progettata che è possibile verificare dai Deplan che le stesse ferrovie distribuiscono sui loro treni, si fermerà a Caserta quando sul versante occidentale. Abbiamo capito, a lei non sta bene Moretti perché pensa che le ferrovie dello Stato siano un disastro. No, non mi sta bene, è vergognoso, è una provocazione per la gente che lavora, che abbia fatto questo tipo di dichiarazione. Uno come chiunque in questo paese in questo momento percepisce questo tipo di somme deve mettersi a disposizione del paese che ha un gran bisogno. Io sono anche un imprenditore e le somme che Moretti percepisce in questo momento sono pari al fatturato della mia cooperativa che dà lavoro a 20 persone stabilmente e 50 rapporti di collaborazione all'alto. Quindi Moretti deve capire che in questo momento il paese sta soffrendo, se vuole mettersi a disposizione deve solo che ringraziare, altrimenti vada a fare in culo, insomma. Va bene, ho capito perfettamente. Fernando da Roma, bello che fa tutto un discorso articolato, cioè, altrimenti vado a fare in culo. Pronto. Fernando, vai. Giuseppe, dimmi. Guarda, ti ho sentito cinguettare, forse sarei molto amico con Chicco Testa. Ma però non lo conosco, ma non è che è amico mio, sì, ma non ci conosciamo. Cazzate. Pronto? Sì, ecco, è arrivato il professore adesso, dai. Non è che è arrivato il professore, scusa, lui ce l'ha contro le associazioni che fanno pseudo... beneficenza o che consumano gran parte non ha detto bilanci. Questo, ha detto che preferisce dare la beneficenza, soldi di beneficenza a qualcuno che conosce piuttosto che associazioni che magari i soldi li spendono per aumentare gli organici e non nella beneficenza vera. Non mi pare che abbia detto una cosa scandalosa, mi pare, io manco la faccio la beneficenza, me ne fotto totalmente, figuriamoci. Mai fatta beneficenza, per carità. Politico. No? Ti ricordi quando è andato a scaricare il letame davanti alla sede dell'Enel ai tempi delle battaglie? Ma a me che cazzo me ne frega di quello che ha fatto prima? Che me ne frega a me? Sai perché c'entra? Perché noi siamo usciti dal nucleare per colpa sua e ancora paghiamo sulla bolletta il contributo di quella uscita. E lui qualche anno fa, 2-3 anni fa, ha chiesto scusa con un libro, no? Vabbè, ma adesso perché dobbiamo passare... Adesso lui dovrebbe chiedere scusa al popolo italiano e dovrebbe metterci lui i soldi per l'uscita del nucleare e ci stava facendo fare un'ulteriore cazzata, ci faceva rientrare nel nucleare dopo 20 anni che abbiamo perso tutte le conoscenze, cioè persone del genere non dovrebbero più albergare, avere diritto di parola, lo capisci o no? Addirittura, dai. È addirittura, è la stessa storia di Moretti, ma chi è? Un piccolo sindacalista che fa carriera nella CGIL, diventa prima amministratore delegato, adesso presidente delle ferrovie, ma che non si riguadagna, che responsabilità c'ha lui? No, guardi, poche responsabilità. Invece e quale responsabilità che c'ha di una società a capitale pubblico? Che cosa gli chiedono? Se i bilanci vanno in rosso, che fanno? Gli chiedono qualcosa? Ma quello che c'entra, la responsabilità ce l'ha qualsiasi atto firmi, cioè, è sotto processo pure a Viareggio Moretti. Appunto. C'avevo un frocio 20 minuti fa, l'ho detto alla signorina, passami subito Giuseppe che lo fermo, gli lampeggio e glielo passo. Se il tuo sangue rosso blu dolce. Carla da Mantova, Carla. Buonasera, dottor Cruciani. Molto dica, piacere. Dica, cara, dica. Allora, io sono un dirigente di un ente locale, esattamente, quindi fa parte del pubblico impiego. Sì. Ho ben 34, quasi 35 anni di servizio. Sì. Non sono mai mancato una volta, ecco. E quindi allora? Non sono mai stata assente neppure con la gravidanza, le dico. Quindi io sono molto adirata sia con l'intervento, premetto la mia posizione, la mia idea. Ma su che cosa? Di cosa vuole parlare? Scusi Carla. Prima di tutto di questo, Ma di questo cosa? Anche di questo alla cosa? Ministra, al mandato, scusi, al ministero assegnato alla ministra, che a me non interessa se è in gravidanza, ben venga un'altra anima. Signora Carla, perché... la posso invitare ad andare un po' al sodo? Cioè, di cosa ci vuole parlare, scusi? Prima cosa, per quanto riguarda la Madia, nulla in contrario per la gravidanza, sono tutte ciacole del allora? Corridoio. Non mi interessa. Ma non sono chiacchiere di corridoio. Carla, io voglio capire di cosa vuole parlare lei, signora? Allora, di cosa vuole parlare? Voglio parlare del pubblico impiego, collegandomi anche all'impegno che ha assunto la ministra. Allora, e la polemica c'è stata perché qualcuno ha detto, compreso Chicco Testa, che non era opportuno dare un incarico del genere a una persona incinta. Lei è d'accordo, sì o no? Andiamo un po' al sodo, altrimenti ci perdiamo. Su. Certo, ha ragione. Allora, per me non è influente. Qual è la questione principale? Qual è? Comunque è un ministero molto pesante, per una ragione. Perché è stato falcidiato nel tempo, ai tempi di Brunetta. Va bene, ed essendo molto pesante come ministero? È un ministero molto delicato, perché sì. Le spiego. E allora, no, ma lo sappiamo che è delicato. Mi dica quale, essendo delicato... Perché mi piace moltissimo che si faccia di tutta l'erba un fascio. Come dicevo prima, avevo premesso, nonostante io sia socialista craxiana e sì. Quindi adesso sono in linea ero col PDL sì. Poi dopo la scissione sono con ma a noi che ce ne frega che è col PDL con Silvio craxiana cosa cioè, cosa vuole dire su per questa storia per arrivare a dire che se mi lascia parlare ma no ma non è che si lascia parlare signora qui non è che siamo alla spiegazione che può durare perché un'ora esattamente ritornando ai tempi di Brunetta sì. Con il suo decreto legislativo 150 ma non me ne frega niente del decreto legislativo di Brunetta non mi faccia arrabbiare signora cosa vuole dire su un ministro Madia incinta è in grado di fare il ministro sì o no? Secondo me potrebbe avere delle difficoltà ci siamo arrivati familiare. Bene quello sono cazzi suoi però signora scusi mi permetto esatto. Di dirlo a me interesserebbe solo una cosa che sì. Fosse veramente preparata ad affrontare tutte le tematiche vabbè questo qua lo vedremo se sarà preparato o no va bene grazie e chiederei che comunque sì. Quando uno intraprende la strada politica e comunque sì. Come anche nel mio caso sì. È stata candidata alle politiche in ma non ce ne frega nulla che lei è stata candidata alle politiche non ce ne frega un cazzo ha capito non mi faccia essere scortese che già lo sono di mio. Del vicepresidente del Senato di un tempo della sì. Prima Repubblica. Bello che non attacca e quindi io sono cresciuta a pane politica però sì. Io adesso sto parlando sia da un punto di vista tecnico perché sono certo, dirigente del personale di un comune sì, non c'è okay? Sì, sì. Del cratere cioè del cratere dove è successo il sisma del cratere del Romagna, sisma che succede? A sì a Modena bene dunque sì, nella provincia di Modena sì. Ecco e quindi io le quindi, dico questo bisogna innanzitutto questo. Fare una distinzione, nella, nel falciare coloro che io sono d'accordo si figuri sono la dirigenza del personale sì. Su quelli e coloro, che, coloro che giocano sul fatto che comunque non c'è il padrone configurato in una persona o colui una che persona. È proprietario dell'azienda sì, certo. E quindi credono io non, me la sono, non mi sono mai sentita così in 35 anni di servizio ho mai sempre... sentita come? Protetta, protetta. O comunque perché che a seguito di soppressioni di posti sì. Io sono finita a 150 km da dove abitavo. Vabbè, signora Carla, però abbia pazienza. Io sono anche ecco. Affascinato dal fatto che lei resista così tanto nonostante le mie ire resista lei al telefono. Ah, ma guardi, se uno resiste 35 anni nel pubblico impiego con sì. Politici sì. Che lasciamo perdere e sono figlia di un politico e faccio sì. Politica però io vorrei dei politici veri quelli che come mio padre hanno sempre sì. Donato un'indennità di carica al partito buona finito vabbè. Lì finito lì bene grazie in via di estinzione grazie Pier da Parma basta Pier da Parma ciao Cruciani dimmi niente, io volevo intervenire sul discorso di Grillo che facevate che se per caso veniva eletto alle europee sì. E questo quell'altro lì se ne andava e niente, io non capisco come uno possa parlare così. Ma chi? Chi? Quello lì che intervistavi prima, non so neanche chi è. Quello... Ma scusa, la disoccupazione è a dei livelli incredibili, la corruzione è a dei livelli incredibili, la benzina va tutto male, non c'è niente che vada bene. E ce la prendono con Grillo. Ma chi se la prende con Grillo? Ma tutti un po', se tu guardi un qualsiasi telegiornale. Qualsiasi persona se la prende con Grillo. Ma non esageriamo adesso. Beh, insomma, stasera viene ospitato. Viene ospitato con tutti gli onori da Mentana. Chiunque cerca un'intervista a Grillo. Non mi pare che tutti siano contro Grillo. I politici sono contro Grillo, certo. Moltissimi politici che sono in Parlamento sono contro Grillo. Su questo non ma c'è dubbio. Io, ad esempio, ho dei miei amici che la pensano diversamente da me, gli faccio sempre questo esempio. Ma tu, tua figlia, sì, la affideresti a una figlia di 7 anni, non so, così, la affideresti a uno stupratore di bambini o a uno che non conosci? Ma no, mi spieghi com'è la storia? No, dico, un padre affiderebbe sua figlia a uno che non conosce, che sarebbe in questo caso Grillo, sì, o uno stupratore che è famoso per essere un maniaco. Un attimo, la telefonata Barca Vendola a 8:30 con Barca ospite. Essendoci un'idea, siamo agli slogan, quindi salvare la patria da un lato e dall'altro fare cambiare la patria, ecco. Per quello che hanno combinato e per il modo in cui hanno combinato questa cosa, come dire, paradossalmente se fallisce anche questo è un disastro, il problema vero è un altro, ma tra 30 giorni quando si capisce che non c'è niente il paese va di testa, questa è la vera cosa. Sono pienamente d'accordo, già ragionato. Allora, Fabrizio Barca, lei parlava... Che sorride, tra l'altro. Adesso è passato un mese, non si può dire che il Presidente del Consiglio Renzi sia rimasto fermo in queste settimane. Ha cambiato giudizio su di lui? Ma posso dire che giudizio ho, ma non se l'ho cambiato perché ho scelto di non considerare questa cosa esistente. Nel senso che delle parole dette violando una libertà sostanziale, che è quella di decidere con chi, quando e come dire le cose, non può essere la base di un riferimento. L'unica battuta che posso fare di questa telefonata, che adesso mi colpisce perché ne sento anche il tono, ovviamente l'ho letta, non l'ho sentita, le dicevo, è che evidentemente dovevo essere particolarmente sotto pressione rispetto all'idea di potermi trovare nella condizione, come può capitare a un funzionario pubblico, di avere molte difficoltà a dire no. Che me la sia fatta io questa storia o altro, sicuramente ero molto sotto pressione, perché il Vendola che ho sentito qui non riesco a capire come ho potuto non riconoscerlo. Ma questo è l'unico commento. Ma io l'ho sentita tutta a suo tempo, devo comunque dire che questo è l'unico era commento. Ben imitato Vendola. Ma scusi, ma lei era sotto pressione perché Renzi le aveva chiesto di fare il ministro dell'economia e lei non voleva farlo? No, perfino nella telefonata non dico questo, no, ero una persona che... che così facilmente, come dire, dilaga e reagisce in quel modo, evidentemente una persona, se la sento in modo oggettivo, che si sente sotto pressione, quindi che sta... Ma lei mi ha fatto invece una domanda che riguarda l'oggi, cioè oggi abbiamo un governo... Ma gli ha chiesto o no di fare il ministro dell'economia, Renzi? Renzi non mi ha mai chiesto di fare il ministro dell'economia, perfino nella derubata telefonata l'ho detto, mi si chiede, credo, così ho letto, se lui me l'ha chiesto, dico no. Me lo dice, me lo chiede, credo, il finto Vendola. Comunque, le ripeto, non mi faccio uscire dalla regola che mi sono dato di non commentare le parole dette in quell'occasione. Parliamo delle cose vere, parliamo di quello che io le voglio dire oggi. Vabbè, non vuole parlare di questa cosa dicendo, tra l'altro, che non ha sentito nemmeno la telefonata, ma io ho grande rispetto per Barca, non ho mai usato parole... Non, perché avrei dovuto parole dure nei suoi confronti, violando, poi questo ovviamente si vedrà cosa si è violato, cosa non si è violato. Pier da Parma è ancora con noi, sì, se no Riccardo d'Arezzo. Pier, ciao, grazie. Riccardo, ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Volevo fare tre cose su una, su Grillo, che praticamente per me è l'unico che ha fatto un partito diverso dagli altri, da movimento si è trasformato in partito, i suoi parlamentari hanno rinunciato alle indennità, hanno creato i fondi allora... salva imprese. No, volevo rispondere a quel signore che diceva che ha mandato Gentaglia in Parlamento, e non è assolutamente vero. Poi volevo parlare di quel signore è Parenzo. Parenzo era. Mi dispiace per Parenzo, ma ha detto una cosa sbagliata. Vabbè, poi? Poi volevo parlare dell'Ungheria. L'Ungheria nessuno lo dice, ma i parlamentari ungheresi hanno lanciato fuori dalle finestre del Parlamento la bandiera europea, perché è una bandiera usurpatrice. Vabbè, allora? E allora voglio dire che rappresenta l'Europa... La sofferenza del popolo europeo. Attenzione, sta arrivando dalla Francia. Che cosa? Un grande temporale che si chiama Le Pen. Vedrete poi i risultati che arriveranno in Italia di conseguenza. Vabbè, vedremo. Intanto prosegue il nostro contest, prosegue il nostro concorso. Vogliamo trovare un fidanzato a Lara Comi. Oh. mamma, dici volta di danzarla. Perché io devo mettere la testa a posto. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei ce la comi, da quanto è single? Da 4 anni. Ogni giorno sul mio palco recita lo stesso show di Puffa Gogo, cristallo e vino, dolce vita però. Oh, partiamo da Marco, imprenditore, 41 anni, il reality continua e continuerà, raccoglieremo fino alla fine di marzo le vostre candidature, poi tornerà in campo anche la bellissima Lara, europarlamentare di Forza Italia. Marco, imprenditore, 41 anni. Ciao Lara, mi chiamo Marco, 41 anni, sono di Napoli, sono laureato in legge, faccio l'imprenditore, non esercito la professione. Vorrei fidanzarmi con te perché sento che tu hai bisogno di un tocco di napoletanità, quindi è necessario aggiungere tutto questo al tuo bagaglio. Sono disposto a conoscerti, mi farebbe molto piacere passare del tempo con te. Vabbè, tocco di napoletanità, bah. Massimo, farmacista, 45 anni. Ciao, sono Massimo e chiamo da Vasto e faccio il farmacista e lavoro in un gruppo ospedaliero e anche sono sommelier e nutrizionista e quindi mi prenderò cura della Lara a tutti i livelli, da quando si sveglia fino a quando fa dormire, fino a quando andrà a dormire. Non ho capito, questo qua che cos'è che vuole fare? Vuole prendersi cura di Lara in quanto nutrizionista e farmacista, da quando si sveglia a quando si va a dormire? Se uno mi propone una cosa del genere mi vado a sotterrare, cioè scappo, mi sposo con un uno della Papua Nuova Guinea piuttosto che, dai, su. Però cura della Lara a tutti i livelli, da quando si sveglia fino a quando fa dormire, fino a quando andrà a dormire. Che paura, che paura. Oh, di un altro ne voglio, di un altro che è numero uno, ne voglio parlare la prossima settimana, eh. Oh, c'è un disoccupato, per carità. Luca, 32 anni. Pronto Lara, salve, sono Luca. Era impaziente di parlare con te, o quantomeno di farmi avanti, che ti ho scritto su Facebook e ci siamo scambiati due opinioni. Chiamo da Salerno, sono inoccupato al momento in quanto la situazione non è proprio facilissima per trovare lavoro. Niente, mi proponevo in quanto potenziale corteggiatore, soltanto in quanto conoscerti come persona. Niente, sono a disposizione, mi piacerebbe trovare in qualche modo un lavoro, ma non grazie a te assolutamente, perché non è questo quello che ti chiedo, ma semplicemente un'opportunità di conoscerti al di fuori della figura politica che sei. Inoccupato, non disoccupato, inoccupato. Ma questo qua vuole un lavoro oppure ci vuole avere una storia con sta come? Avete capito voi? Che vuole fare? Tutto, il pacchetto. Dai, su. Vabbè, la zanzara è radio24.it, si continua, si continua, mandate, non vergognatevi, cercate di fare meglio se pensate che queste cose che avete sentito sono terrificanti. Voglio sentire prima di chiudere David da Parma. Sì, salve Cruciani. Vai. Sono da Vicenza, non da Parma. Da Vicenza, volevo uguale. Volevo solamente salvare tutti i radioascoltatori della zanzara e dire di non comprare assolutamente le magliette di Erazzi. Perché? Non ho personaggio capito. Del genere. Perché? Per quale motivo? Sicuramente ci guadagna su, cioè è tutta una messa in scena per guadagnarci lui, altro che beneficenza. Quindi, te lo dico da amico, fatti le cazzi lontana da una cosa del genere. No, innanzitutto dice Razzi, che cos'è che dice Razzi? Te lo dico da amico, fatti le cazzi tuoi. Ecco, innanzitutto fatti i cazzi tuoi, primo. Sì, secondo, sì, certo. No, ma secondo, scusi, lei sta accusando ingiustamente. Giustamente, vedendo il personaggio, ma dai, chiunque. Ma che me l'hai impazzito? Se io organizzo una cosa, stia certo che quei soldi non finiranno in mano a dei banditi o comunque non verranno dispersi. Perché sospetta che Razzi voglia fare queste cose per non darli a un ONG, per non darli a un'associazione? Scusi. Ma sì, perché un tipo così, un approfittatore così. Ma se ne vada, cioè. Ci sentiamo lunedì, va, 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.